Il terzo anello, ad alta voce. Il richiamo della foresta di Jack London. Traduzione di Gianni Celati. Quella volta che in 5 minuti Buck fece guadagnare $1,600 a John Thornton, permise al suo padrone di saldare certi debiti che aveva in sospeso e di partire con i suoi soci verso l'est, in cerca di una leggendaria miniera perduta, la cui storia era vecchia quanto la storia di quel paese. Molti l'avevano cercata, pochi l'avevano trovata, ma non pochi erano quelli che mai erano tornati da tale ricerca. Quella miniera perduta era immersa nella tragedia e avvolta nel mistero. Nessuno sapeva chi l'avesse scoperta. Le storie più vecchie che venivano raccontate non risalivano fino al suo scopritore. Fin dall'inizio v'era stata una vecchia capanna sgangherata. Uomini in punto di morte avevano giurato che essa esisteva e che esisteva la miniera di cui la capanna indicava l'ubicazione, comprovando la testimonianza con pepite diverse da qualsiasi altro tipo d'oro delle terre del nord. Tuttavia, nessun uomo ancora vivente aveva mai messo gli occhi su quella casa del tesoro. E quanto ai morti, quelli erano morti. Per cui John Thornton, Pete e Hans, assieme a Buck e a una dozzina d'altri cani, si avviarono verso est su una pista sconosciuta, con l'idea di riuscire laddove uomini e cani altrettanto esperti avevano fallito. Con la slitta risalirono lo Yukon per 70 miglia, poi si volsero a sinistra lungo il fiume Stewart, attraversando il Mayo ed il McKiston, e proseguendo fino a che lo Stewart diveniva un ruscelletto serpeggiante tra i picchi che segnavano la spina dorsale del continente. John Thornton chiedeva poco, sia all'uomo che alla natura. Non temeva le zone selvagge, e con un fucile e una manciata di sale avrebbe potuto inoltrarsi in quelle lande solitarie e proseguire fin dove e fin quando avesse voluto. Dal momento che non aveva fretta, si procurava il cibo alla maniera indiana, cacciando durante i quotidiani spostamenti, e se non riusciva a trovare selvaggina, continuava come gli indiani a procedere, sicuro che prima o poi ne avrebbe trovata. Così, durante il grande viaggio nell'est, la carne fresca era il prezzo del biglietto. Le munizioni e gli attrezzi costituivano il principale carico della slitta, e la tabella di marcia era stabilita in base ad un futuro senza limiti. Era una felicità sconfinata per Buck, questo andare a caccia, a pesca, questo indefinito vagare attraverso i luoghi sconosciuti. Per settimane e settimane di seguito, essi proseguirono in quel viaggio continuo, giorno dopo giorno, accampati per settimane di qua e di là, con i cani che non facevano niente, e gli uomini che facevano buchi col fuoco nel terreno ghiaioso e gelato, poi lavavano innumerevoli secchi di terriccio al calore del fuoco. Talora si trovavano a patire la fame, ed altre volte banchettavano in maniera smodata, secondo l'abbondanza della selvaggina e la fortuna della caccia. I mesi passarono, essi girovagavano avanti e indietro, attraverso vaste distese non segnate sulla carta, dove non c'erano uomini e dove tuttavia gli uomini erano stati, se la leggenda della capanna sperduta era vera. Nell'autunno di quell'anno penetrarono in una inquietante regione di laghi, triste e silenziosa, dove erano passate delle anatre selvatiche, ma dove, quando essi giunsero, non c'era più vita o segno di vita. V'era solo il soffio di venti freddi, il ghiaccio che si trasformava nei luoghi ombrosi ed il malinconico mormorio delle onde sulle spiagge deserte. E per un altro inverno ancora vagarono su piste cancellate dove uomini erano passati tanto tempo prima. Una volta giunsero su un sentiero che era stato tracciato attraverso la foresta, un sentiero antico, e la capanna sperduta parve loro molto vicina. Ma quel sentiero cominciava e finiva senza portare da nessuna parte, e ciò rimase un mistero, come l'uomo che l'aveva tracciato e la ragione per cui l'aveva fatto. Un'altra volta capitarono sui resti corrosi dal tempo di una capanna di caccia e tra i brandelli di coperte imputridite. John Thornton Trovò un fucile a pietra focaia a canna lunga. Lo riconobbe come un fucile della Hudson Bay Company, usato nei primi tempi del Nord-Ovest. E null'altro, nessuna traccia dell'uomo che in quei giorni lontani aveva costruito la capanna e lasciato il fucile tra le coperte. Di nuovo tornò la primavera e al termine di tanto vagabondare essi trovarono non la capanna sperduta, ma un giacimento di superficie in una larga vallata dove l'oro luccicava sul fondo del setaccio come biondo burro. L'oro veniva messo in sacchetti di pelle d'alce da 50 libbre l'uno ed ammucchiato come legna fuori dalla baracca di tronchi d'abete. Gli uomini faticavano come titani mentre i giorni passavano via in fretta come un sogno. A mano che accumulavano il loro tesoro. Per i cani non v'era niente da fare, tranne trasportare di tanto in tanto la selvaggina che Thornton uccideva. Così Buck passava lunghe ore meditando accanto al fuoco. La visione di quell'uomo peloso con le gambe corte gli tornava alla mente con maggiore frequenza, ora che non aveva quasi nulla da fare. E spesso, sbattendo gli occhi accanto al fuoco, Buck vagava con lui in quell'altro mondo di cui aveva memoria. Il tratto fondamentale di quell'altro mondo pareva essere la paura. Quando osservava l'uomo peloso dormire accanto al fuoco con la testa tra le ginocchia e le mani sopra la testa, Buck vedeva che il suo sonno era inquieto. O se accadeva che camminassero in riva al mare, dove l'uomo peloso raccoglieva molluschi che mangiava appena raccolti. Sempre quell'uomo volgeva gli occhi dappertutto, in cerca di pericoli nascosti, con le gambe pronte a una fuga precipitosa al loro apparire. Attraverso la foresta scivolavano senza alcun rumore, Buck alle calcagna dell'uomo peloso, tesi e vigili entrambi, con orecchie tese ed irrequiete e narici palpitanti, giacché l'uomo aveva un udito e un odorato acuti quanto quelli di Buck. E molto simile alle visioni dell'uomo peloso era il richiamo che echeggiava ancora nella profondità della foresta. Ciò lo riempiva d'una grande inquietudine e di strani desideri. Gli faceva provare una vaga, languida contentezza ed egli si accorgeva di avere smanie selvagge e stati di agitazione, senza sapere perché. Certe volte inseguiva quel richiamo dentro la foresta, cercandolo, come fosse una cosa tangibile, abbaiando sommessamente, oppure con tono di sfida, secondo il suo stato d'animo. Ficcava il naso nel freddo muschio del legno, o nel terriccio, dove crescevano alte erbe, e sbuffava di gioia ai grassi odori della terra. Oppure si acquattava per ore e ore, come se stesse nascosto, dietro tronchi crollati pieni di funghi, con occhi e orecchie spalancati, a cogliere tutto ciò che si muoveva e risuonava attorno a lui. Giacendo a quel modo, forse egli sperava di sorprendere quel richiamo che non riusciva a capire. Ma non sapeva perché facesse tutte queste cose. Era costretto a farle e non rifletteva sulle proprie azioni. Una notte balzò nel sonno con un sussulto, l'occhio sbarrato, le narici che fremevano annusando e la criniera che si rizzava a ondate successive. Dalla foresta era giunto il richiamo, o una nota, poiché il richiamo consisteva in molte note, chiaro e distinto come mai lo era stato, un lungo ululato, simile e tuttavia non identico al suono emesso da un cane schimese. Egli lo riconobbe, in quel modo consueto, come un suono già udito prima. Si lanciò attraverso il campo addormentato e rapido e silenzioso si precipitò attraverso i boschi. A mano che si avvicinava al grido, rallentava il passo, divenendo cauto ad ogni movimento, finché giunse ad uno spiazzo tra gli alberi. Qui, osservandosi attorno, vide accucciato e col busto eretto, il naso puntato verso il cielo, un lungo e magro lupo dei boschi. Thank you. dopo cessò l'ululato e si pose a fiutare la sua presenza. Buck uscì nello spiazzo con passo misurato. Il corpo raccolto e un po' abbassato, la coda rigida e dritta, ed i piedi che toccavano il terreno con insolita cautela. Ogni mossa era assieme un atto di minaccia e una proposta di amicizia. Era la tregua minacciosa che segna l'incontro di bestie selvagge in cerca di preda. Ma il lupo fuggì dalla sua vista, ed egli lo inseguì con balzi felini in una frenesia di raggiungerlo. Lo spinse in un canale senza sbocco, nel letto di un torrente, dove uno sbarramento di tronchi bloccava il cammino. Il lupo fece una piroetta, roteando sulle zampe posteriori, come Joe e altri cani eschimesi quando erano in trappola, ringhiando e rizzando il pelo, sbattendo i denti in una continua e rapida successione di morsi. Buck non attaccò. Gli girò bensì intorno, con una serie di mosse amichevoli. Il lupo era sospettoso e spaurito, giacché era tre volte meno grosso di Buck, e la sua testa raggiungeva a malapena la spalla dell'altro. Cogliendo il momento favorevole, saettò via e la caccia riprese. Più e più volte venne stretto in un angolo, e la scena si ripeté identica, e ciò nonostante il lupo fosse in cattive condizioni, altrimenti del resto Buck non l'avrebbe raggiunto tanto facilmente. Correva sin quando il capo di Buck non era all'altezza del suo fianco. Allora, braccato, piroettava su se stesso a fronteggiarlo, finché alla prima occasione non fuggiva di nuovo. Ma in ultimo la costanza di Buck venne premiata. Accorgendosi che l'altro non aveva intenzione di fargli del male, il lupo alla fine prese ad annusargli il naso. Allora essi divennero amici e scherzarono tra di loro, in quel modo nervoso e un po' timido con cui le fiere nascondono la propria ferocia. Dopo qualche tempo il lupo partì, al piccolo trotto, così da mostrare chiaramente che si stava dirigendo verso un luogo preciso. Fece comprendere a Buck che doveva seguirlo, ed essi corsero l'uno accanto all'altro attraverso il grigio crepuscolo, risalendo il letto del torrente sino alla gola da cui l'acqua scaturiva, ed attraverso il brullo spartiacque dove erano le sue sorgenti. Sul pendio opposto allo spartiacque scesero in una zona pianeggiante, dove si vedevano molti spazi boscosi e molti torrenti, ed attraverso questi spazi corsero senza fermarsi per ore ed ore, mentre il sole saliva più in alto e la giornata diventava calda. Buck provava una gioia sfrenata. Sapeva che finalmente stava rispondendo al richiamo, mentre correva fianco a fianco con quel suo fratello dei boschi, certamente verso il luogo da cui il richiamo proveniva. In rapida successione tornavano alla sua mente antiche memorie, e queste lo agitavano, come un tempo l'avevano agitato quelle realtà di cui le memorie erano l'ombra. Aveva già fatto ciò che stava facendo, da qualche parte, in qualche altro mondo che ricordava confusamente. Ed adesso stava facendo la stessa cosa, correndo libero negli spazi aperti, con sotto i piedi la terra intatta e il vasto cielo sopra di sé. Sostarono a bere presso un corso d'acqua, e fermandosi Buck pensò a John Thornton. Si sedette. Il lupo ripartì verso il luogo da cui certamente proveniva il richiamo. Indy tornò indietro verso di lui, annusandogli il naso e facendo mosse come d'incoraggiamento. Ma Buck si voltò e prese lentamente la strada del ritorno. Per quasi un'ora quel suo fratello selvaggio corse al suo fianco, mugolando piano. Quindi si accovacciò, puntò il naso in alto ed ululò. Era un ululato triste, e mentre Buck continuava la sua strada senza sosta, lo sentiva affievolirsi sempre di più, finché non si spense in distanza. Per 2 giorni e 2 notti, Buck non lasciò il campo né perse di vista Thornton. Lo seguiva al lavoro, lo osservava mentre mangiava, gli stava appresso fin quando si infilava sotto le coperte la sera e quando usciva dalle coperte al mattino. Dopo 2 giorni, tuttavia, il richiamo della foresta prese ad echeggiare in modo più imperioso che mai. Buck fu ripreso dall'irrequietezza ed era ossessionato dal pensiero di quel fratello selvaggio, di quella terra ridente oltre lo spartiacque e della corsa fianco a fianco attraverso le grandi distese dei boschi. Di nuovo si diede a vagare nei boschi, ma quel suo fratello selvaggio non tornò più. E per quanto egli stesse in ascolto in lunghe veglie, quel triste ululato non si levò. Cominciò a trascorrere la notte fuori, restando lontano dal campo per giorni interi, ed una volta attraversò lo spartiacque alle sorgenti del ruscello e scese in quella terra di boschi e torrenti. Per una settimana vagò da quelle parti, invano, cercando fresche tracce di quel suo fratello selvaggio, procurandosi la carne mentre era in marcia, andando con quel trotto lungo e tranquillo che pareva non stancarlo mai. Pescò il salmone in un largo corso d'acqua che sfociava da qualche parte nel mare. Presso lo stesso corso d'acqua uccise un grande orso nero, accecato dalle zanzare mentre pescava come lui, il quale orso si agitava poi nella foresta con una rabbia imponente e terribile. Nonostante ciò, fu un combattimento assai duro, che risvegliò gli ultimi ancora latenti residui della sua ferocia. E 2 giorni più tardi, tornato alla sua preda e trovando una dozzina di ghiottoni che si disputavano la carcassa, li disperse come polvere al vento. I fuggiaschi lasciarono dietro di sé 2 compagni che mai più avrebbero litigato. Il suo desiderio di sangue divenne più forte che mai. Animale carnivoro che viveva esclusivamente di carne, era egli adesso nel suo pieno sviluppo, al culmine della sua esistenza e traboccante di vigore e coraggio. Quando Thornton gli passava una mano sulla schiena, accarezzandolo, quella carezza era seguita da scoppiettii e crepitii, perché a quel contatto ogni suo pelo scaricava tutta l'elettricità trattenuta. Ogni sua parte, corpo, cervello, tessuti nervosi, fibre, vibravano in un accordo squisito, e tra tutte le parti v'era un equilibrio e un rapporto perfetto. I suoi muscoli erano sovraccarichi di vitalità e scattavano in azione con la violenza di molle d'acciaio. La vita scorreva attraverso di lui in uno splendido flusso, lieto ed esuberante, al punto da sembrare dovesse esplodere in un'estasi assoluta e riversarsi generosamente sul mondo. «Non c'è mai stato un cane così», diceva un giorno John Thornton, mentre i suoi soci osservavano Buck che si allontanava dal campo. «Dopo che l'hanno fatto, hanno buttato via lo stampo», disse Pete. «Credo anch'io», dichiarò Hans. Lo vedevano allontanarsi dal campo, ma non vedevano il momento dell'incredibile trasformazione che subito avveniva nel segreto della foresta. Non camminava più, diventava all'istante una creatura selvatica che procede leggera e furtiva a passi felini, un'ombra fuggente che appariva e scompariva tra le ombre. Sapeva sfruttare ogni riparo, strisciare sul ventre come un serpente e come un serpente balzare e colpire. Era capace di afferrare una pernice di montagna nel suo nido, di uccidere un coniglio mentre dormiva e di ghermire a mezz'aria i piccoli scoiattoli del nord che fuggivano verso un albero con un secondo di ritardo. I pesci negli stagni non erano abbastanza svelti per lui e i castori che riparavano le loro dighe non erano altrettanto prudenti. Uccideva per mangiare, non per passatempo, ma preferiva cibarsi di ciò che uccideva da sé. In tal modo si insinuò nei suoi atti il gusto dell'agguato. Era un piacere per lui sorprendere gli scoiattoli e quando stava per prenderli lasciarli fuggire in cima agli alberi urlando in folle panico. Thank you.